il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. La scorsa settimana al Quadrifoglio con Don Alvino Bizzotto abbiamo parlato dell'esigenza di salvaguardare il territorio veneto dalla cementificazione massiccia che lo ha portato al limite delle proprie capacità di sopportazione. Oggi torniamo in qualche modo su questo argomento affrontandolo da un punto di vista diverso. Lo facciamo con Gianni Belloni, coordinatore dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia, che ha presentato la scorsa settimana il rapporto 'Ndrangheta, corruzione e cemento, il Veneto che deve cambiare. Ecco, benvenuto Gianni intanto. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Ecco, dal rapporto Transcrime che è citato all'interno di questo documento sugli investimenti delle mafie 2013 si parla di Veneto, di circa 2 miliardi di euro all'anno di fatturato, tra virgolette, delle mafie, e che se fanno da padrone la prostituzione, droga, la contraffazione che conosciamo bene, una fetta riguarda anche il mercato illegale dei rifiuti speciali, che vedrebbe al Veneto al primo posto in Italia, e questa forse è una sorpresa. Nel senso, ma è una sorpresa fino a un certo punto, perché intorno al reato di traffico illecito dei rifiuti sono state condotte nel Veneto diverse inchieste molto importanti che hanno messo a nudo un sistema di smaltimento dei rifiuti appunto prodotte dalle aziende, dalle nostre industrie illecito, nel senso che venivano contraffatte le bolle, le carte di accompagnamento che dimostravano tra virgolette che questi rifiuti venivano conferiti in posti adatti per il loro trattamento, ma in realtà nulla di tutto questo. E adesso è all'ordine del giorno la vicenda della terra dei fuochi, dello sversamento dei rifiuti in terra campana, e noi sappiamo che una parte di questi rifiuti provenivano appunto dalle industrie venete. Quindi non è una sorpresa, c'è anche tutto in questi anni le modalità di traffico dei rifiuti sono cambiate, nel senso che si è aggiornato tra virgolette il know-how dei trafficanti che utilizzano delle strumentazioni, delle modalità un po' più raffinate, ma alla fine sostanzialmente il reato e il traffico è quello. Assistiamo anche a un cambiamento delle rotte, nel senso che non c'è più solo e c'è in minima parte la rotta nord-sud, ma addirittura adesso assistiamo anche all'interramento dei rifiuti ormai da qualche anno anche nei nostri tracciati stradali per la vicenda della Val d'Astico Sud. Ecco, parliamo proprio di cemento adesso. Mafie non sono appunto mafie, legalità, ambiente, non solo rifiuti, ma anche il cemento, questa cementificazione che dicevamo esagerata anche dalle nostre parti, in realtà vede anche intrallazzi, è comunque un luogo di investimento anche di queste associazioni mafiose. Sì, dunque, cioè, allora, sia per quanto riguarda i rifiuti che per quanto riguarda il cemento, diciamo intanto che le pratiche illegali e criminose non sono solo appannaggio delle mafie, ma sono, diciamo che ad esempio per quanto riguarda i rifiuti, i trafficanti veneti non hanno nulla da imparare, nel senso che poi le inchieste che hanno riguardato questo territorio poi hanno preso di mira alcuni trafficanti e faccendieri veneti e non particolarmente legati alle organizzazioni criminali del sud. Comunque, per quanto riguarda la questione del cemento, no, è storico l'interesse delle organizzazioni criminali per l'edilizia e per alcune fasi che riguardano le cosiddette grandi opere, che sono appunto la movimentazione terra e alcune fasi appunto del lavoro nelle grandi opere. Su questo sono stati più di qualcuno i segnali che in questi anni hanno così fatto emergere il ruolo di alcune imprese che erano o si suppone che siano legate alle organizzazioni criminali. noi su questo facciamo, cerchiamo di fare un monitoraggio abbastanza puntuale delle cose che emergono, pubblichiamo questo rapporto Ecomafie tutti gli anni e abbiamo visto che c'è una presenza per quanto riguarda le grandi opere, soprattutto nella fase del subappalto, per cui per quanto riguarda la fase di aggiudicazione di alcuni lavori da parte delle grosse imprese che vincono i grandi appalti. C'è qualche opera in particolare che sia sotto il vostro controllo in questo momento? Ma in realtà noi ragioniamo molto di cose emerse, perché non è un nostro compito quello di investigare, perché per quello ci sono le forze dell'ordine che fanno il loro mestiere. Certo che su alcune questioni, come ad esempio la Pedemontana Veneta, c'è una attenzione, perché è chiaro che nel momento in cui questo ci sono delle grandi opere su cui circola un bel po' di denaro, c'è la necessità di vedere che cosa accade. Ecco, ci fermiamo per qualche momento, torniamo assieme tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. But now it means nothing. The echoes are gone in the hall, but I still remember the pain of December. Oh, there isn't one thing left you could say. I'm sorry, it's too late. I'm breaking free from these memories. Gotta let it go, just let it go. Torniamo in linea con la trasmissione del Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Gianni Belloni, coordinatore dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Venezia. Si stava parlando di grandi opere. Dal rapporto che avete presentato la scorsa settimana, sotto accusa non sono solo le mafie, ma forse anche il sistema politico e burocratico. Per esempio, sono un po' criticati metodi come il project financing, ampiamente sfruttati dalle mafie e che sembrano favorire un po' la corruzione. Sì, esatto, questo è un aspetto a cui noi teniamo molto, perché la nostra attenzione non è tanto sull'agire dei soggetti criminali che, tra virgolette, in maniera un po' cinica possiamo dire fanno il loro mestiere. Il problema è capire se fanno il loro mestiere le amministrazioni e le istituzioni che sono deputate al controllo, e soprattutto quello di promuovere delle politiche sensate. Allora, noi pensiamo che alcune politiche, come quelle politiche urbanistiche che sono state pensiamo e abbiamo analizzato, che alcune politiche che sono state portate avanti nel Veneto in questi anni siano sostanzialmente, non abbiamo paura di dirlo, delle politiche criminogene, cioè delle politiche che favoriscono non dico coscientemente, ma oggettivamente favoriscono l'intraprendenza anche delle organizzazioni criminali. Una urbanistica che sostanzialmente dà mano libera anche all'iniziativa di privati nel intervenire nei piani urbanistici attraverso le iniziative che possono proporre ai comuni. Il project financing, che è uno strumento che di per sé impedisce una necessaria trasparenza nella effettuazione delle opere e in tutti gli atti che precedono le opere, perché poi vengono segretati i documenti e non si sa che tipo di contratti vengono fatti, e che poi obbliga il contraente generale a scaricare sugli subappalti, sulle ditte di subappalto la responsabilità dei tempi di lavori, eccetera. Sono tutti dei meccanismi che hanno favorito alcuni soggetti e che, complice anche una crisi che sicuramente sta mettendo in grossissima difficoltà molte ditte anche qui, ma insomma sta favorendo un certo tipo di infiltrazione. Per cui noi abbiamo un po' lanciato questa cosa di dire: affrontiamo la questione della mafia del giorno prima, non la mafia del giorno dopo, quando ormai le cose sono acclarate. Cioè, pensiamo a quali politiche più sensate si possano fare, non solo contro la mafia, ma proprio per uno sviluppo che abbia un po' più di senso. Pensiamo ad esempio a delle regole urbanistiche più strette, pensiamo all'idea e sotto il controllo delle amministrazioni comunali, pensiamo all'idea di fare uno stop al project financing e una valutazione, una moratoria sul project financing e una valutazione seria sui costi e sulle procedure che conducono alle grandi opere. Insomma, pensiamo che occorra agire sul lato della vera e propria prevenzione, non solo del controllo a cascata quando le cose ormai sono già avvenute. Ecco, purtroppo il tempo anche per questa puntata è scaduto, ti dobbiamo salutare, grazie per queste informazioni. Non chiudiamo dando anche un sito internet nel quale chi vuole approfondire possa poi trovare delle informazioni. Sì, è www.osservatorioambientelegalitavenezia.it, tutto attaccato, tutto minuscolo. Grazie, arrivederci. Concludiamo questa puntata con le consuete notizie, che oggi sono due. Inizia domani 4 dicembre al Brennero la battaglia di Natale Scegli l'Italia, lanciata da Coldiretti contro la cosiddetta agropirateria. Centinaia di migliaia di agricoltori italiani si daranno il turno per tutto il periodo natalizio per controllare e verificare le importazioni alimentari e smascherare il finto Made in Italy diretto alle tavole degli italiani. Attraverso il valico del Brennero, infatti, giungono in Italia miliardi di litri di latte, cagliate, polveri, ma soprattutto milioni di cosce di maiale per fare i prosciutti, nonché conserve di pomodoro, succhi di frutta concentrati e altri prodotti che, secondo Coldiretti, stanno provocando la chiusura di stalle di aziende agricole con la perdita di migliaia di posti di lavoro. Il campo base sarà nell'area di parcheggio Brennero dell'autostrada in direzione sud. Sabato 7 dicembre al centro congressi La Piroga di Tencarola di Selvazzano alle ore 12, l'Associazione dei giornalisti agricoli e ambientali del Veneto assegna il premio che annualmente viene dato a persone che si siano distinte per la promozione e tutela del territorio regionale. Sarà premiato Gianni Gaggiani, ideatore di Grow the Planet, una community online dedicata alla coltivazione del proprio orto, e Gianni Gaggiani a breve lo avremo ospite presso nella nostra rubrica Il Quadrifoglio. Anche per questa settimana è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima, potete riascoltarci sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato Il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita, in collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.